want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, want to want. Two, two, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di DJ Telesco. Buon pomeriggio da Gigi Telesforo, siete in contatto con il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24, e questo è il primo di una serie di appuntamenti che ci accompagneranno con tanta musica fino al 6 di gennaio per festeggiare questo Santo Natale. E in questa giornata di vigilia di Natale, non potevo che scegliere il gospel per farvi compagnia, e naturalmente non potevo non scegliere e dare priorità assoluta a quello che considero da tempo il numero uno del gospel contemporaneo, Kirk Franklin. Eccellente musicista, compositore e arrangiatore che è riuscito con il tempo a coniugare la tradizione del gospel con gli elementi tipici della black music di oggi: hip hop, rap, funk, R&B e gospel. Questa è la formula magica di Kirk Franklin, nato a Fort Worth in Texas. Viene abbandonato dalla madre all'età di 3 anni e senza mai aver conosciuto suo padre. Da piccolo venne accudito da una sua zia, Gertrude Franklin. La zia era una donna profondamente religiosa e crebbe Kirk Franklin nell'osservanza dello stile di vita dei cristiani evangelici battisti. Just one more time. This is the third time this week. Oh, mama. Done this to me. Come on, I don't need you preaching at me. I can't raise no more. You know I'm a old You know lady. I didn't ask this. You of all people. You know I'm a widow. I don't get much money. Mama, if you ain't gonna help me, just tell me. Così Kirk Franklin sviluppò precocemente il suo talento per la musica, tanto che all'età di 4 anni suonava già il pianoforte e a 11 divenne direttore musicale di uno dei cori gospel della Chiesa Battista più importante di Dallas. Kirk Franklin, protagonista assoluto di questa vigilia di Natale, qui per il Soundcheck di Radio 24. Kirk Franklin è il protagonista assoluto del Soundcheck di Radio 24 per questa vigilia di Natale. Lo abbiamo ascoltato dal vivo in Hosanna e poi Looking for You e ora Still in Love, per questo musicista che nel periodo della sua adolescenza si è allontanato per un certo momento dalla cerchia di persone della sua chiesa, e dopo essere stato espulso dalla sua scuola, dopo aver avuto una ragazza rimasta incinta e dopo la morte improvvisa di un suo amico che venne ucciso all'età di 15 anni, tornò in chiesa e lì parte la sua carriera. Still in Love, Kirk Franklin al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Check, check, one, two. Il suono della musica. Il termine musica gospel può riferirsi a 2 generi musicali apparentemente affini: uno strettamente legato alla musica religiosa, molto simile alla canzone corale spiritual che emerse nelle chiese afroamericane cristiane metodiste negli anni 30, l'altro più vicino alla musica religiosa composta, diffusa e suonata successivamente da artisti di qualunque fede o etnia, soprattutto nel sud degli Stati Uniti d'America e diffusa poi nel resto del mondo. Abbiamo scelto di festeggiare questa vigilia di Natale qui per il Soundcheck di Radio 24 con il numero uno del gospel contemporaneo, Kirk Franklin, qui in Code Up, accompagnato dalla voce incredibile di un pastore della chiesa metodista battista, Shirley Caesar. Questo è il Soundcheck per la vigilia di Natale. Call up. Come on. Call up. Come on. To see you. To see us. Us. up il sound incredibile di Kirk Franklin, protagonista di questa vigilia di Natale per il soundcheck di Radio 24, il primo di una serie di appuntamenti che ci accompagneranno con tanta musica fino al 6 di gennaio. Kirk Franklin lo vogliono tutti, da Mary J. Blige a Bono, a R. Kelly, tutti i protagonisti dell'R&B di oggi vogliono Kirk Franklin, eccellente compositore e arrangiatore che torna qui al soundcheck di Radio 24 con Little Boy. Little boy, where you going? Tell me what you gonna do, you gonna be. Tell me what's your future. It's college in your dreams. You like that money and them shiny things. Got shot at 17. No. At your funeral we sing a sad song. Sad song. Your mama's baby's gold. I hear the preacher say, rest in peace. Sound check. Check, check, one, two. Il suono della musica. Imagine Me dal repertorio di Kirk Franklin, protagonista assoluto per la puntata di oggi, per questa vigilia di Natale qui al soundcheck di Radio 24. Kirk Franklin ha già vinto di tutto, vari dischi di platino, dischi d'oro per le sue pubblicazioni, continua a fare concerti affollatissimi di seguaci, anche chi non è strettamente legato alla religione cristiana battista. Kirk Franklin è un protagonista di spicco della black music di oggi e qui al soundcheck di Radio 24 arriva con When I Get There e poi Super Funk con Could Have Been. Sound check. Check, check, one, two. Il suono della musica. E anche il nostro Kirk Franklin, protagonista di questa vigilia di Natale qui al soundcheck di Radio 24, utilizza molto spesso, così come si faceva nelle big band, il call and response. Il solista chiama cantando dei versi e il coro tipico del gospel, risponde. È una tecnica molto usata anche per coinvolgere il pubblico. E qui Kirk Franklin lo ascoltiamo in un suo classico intitolato Hero. I am now 11 years old. Me and my unit are here today. God, because God, my hero, our my hero, saved me, life. Saved my life. Whoa. Healer, deliverer, protector, provider. He is the hero. Sunshine, un'altra composizione meravigliosa, scritta e arrangiata dal bravissimo Kirk Franklin, oggi protagonista assoluto della nostra vigilia di Natale. Il suono tipico del gospel contemporaneo con Kirk Franklin che chiude con un capolavoro dal vivo, Brighter Day. Non mi resta che augurare a tutti voi un buon pomeriggio, buona giornata, tanta musica e senz'altro auguri di Natale da Gegé Telesforo. Restate qui in contatto su Radio 24. Yo, everybody come get your bounce on, get your bounce on, get your bounce on. Don't be cute with it, you gotta get, come on. Fifth one, fourth one. Come on, sing it. When I close my eyes and think of you and reminisce on all the things you do, I can't imagine my life without you. It's like paradise, now I know it's real. Sound check. Il suono della musica.